Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io avverto un clima che sta diventando più unitario. Nessuno ha messo in discussione l'alleanza, anzi c'è lo sviluppo di un dibattito che è tutto pruiuto. Io penso che il governo si rafforzi o si indebolisce a seconda di quanto fa e quanto non fa, e questo è un governo che ha affrontato una delle più drammatiche manovre economiche per colpa di Salvini degli ultimi anni, l'ha superata e ora comincia a raccogliere i risultati per il bene delle persone. Sempre ottimista, si dice, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Zingaretti, segretario del Partito Democratico, anche nonostante il giorno dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle, di cui abbiamo parlato lungamente ieri. Dice: il governo comunque va avanti, unito, stiamo cominciando a raccogliere i frutti della nostra politica, ma ci sono fuochi d'artificio nella politica italiana a pochissimi giorni, praticamente 3 giorni dalle regioni, dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, con anche battute pesanti, con lacrime, comizi, eccetera, eccetera. Ne parleremo, così come torneremo a occuparci del virus cinese, che continua a destare una certa preoccupazione internazionale. Per fortuna, poco fa, pare che un caso sospetto a Bari fosse in realtà non legato al coronavirus. Però, insomma, ne parleremo, torneremo a parlare con una nota virologa. Poi l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle sigarette elettroniche. Sono pericolose, secondo l'OMS, e in più, soprattutto per gli adolescenti che ne fanno largo uso per evitare di fumare, oppure anche così per una questione ludica, sono pericolose per lo sviluppo del cervello. E poi parleremo di un cranio che potrebbe essere di un personaggio famoso, ma tutto questo per il momento resta sospeso, perché tra poco si parte con la sintesi della giornata. Voi lo sapete, potete continuare a mandare le vostre riflessioni, messaggi, commenti, come sempre tutte le sere qui Effetto Notte, alla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Un sacco di cose da raccontarvi, partiamo subito. Battute finali di campagna elettorale in vista delle regionali di domenica. Bibbiano, piazze contrapposte tra Salvini e le sardine. Zingaretti ottimista sulla tenuta del governo anche dopo le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle da parte di Di Maio. Cassazione via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. Il virus cinese, Pechino chiude la città proibita, 25 morti in Cina, casi sospetti in Europa. Sotto osservazione una donna ricoverata al policlinico di Bari, però notizia di poco fa sembra smentita. E poi per l'OMS è ancora presto per parlare di un'emergenza sanitaria internazionale. Inquinamento: in questo mese di gennaio 18 i giorni di sforamento in 5 città. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle sigarette elettroniche, danneggiano il cervello degli adolescenti. Brexit: l'accordo è in vigore, c'è la firma della regina. Turchia: il partito di Erdogan rilancia il matrimonio riparatore per salvare dalle conseguenze penali gli autori di violenze sessuali contro le donne. Reddito di cittadinanza, ville, Ferrari e imprese, scoperti 237 furbetti. Archeologia: il cranio misterioso all'Accademia d'Arte Sanitaria di Roma potrebbe essere di Plinio il Vecchio. Partiamo quindi dalla politica italiana, con maggioranza e opposizione alle prese con gli ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, che si terranno questa domenica. Nel governo si guarda anche al dopo Di Maio e come il suo passo indietro da leader politico dei 5 Stelle possa o meno condizionare l'esecutivo. Nel frattempo a Bibbiano in Emilia-Romagna, cittadina coinvolta nell'inchiesta sui presunti abusi nell'affido di minori, il leader della Lega Salvini e le sardine riempiono 2 piazze contrapposte. Intanto dalla Cassazione arriva il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari, praticamente il referendum contro il taglio dei parlamentari, ma di tutto questo torneremo a parlare tra poco. Intanto continua a fare una certa paura il contagio del virus cinese. I morti in Cina sono 25, i casi di contagio 616, ma i primi casi sospetti si registrano anche in Europa. Sotto osservazione pareva fino a poco tempo fa una donna al policlinico, ricoverata al policlinico di Bari, però notizia appunto di pochi istanti fa, come vi dicevo, dovrebbe non essere questo il caso. Le analisi escludono, eccola qui, le analisi escludono che nel caso della donna di Bari sia legato al coronavirus, e su questo tema poi ci sarà modo di approfondire con un'esperta virologa. Economia e Unione Europea. Con le parole della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, la Banca Centrale Europea tiene i tassi invariati nella prima riunione dell'anno e lancia una revisione strategica della sua politica monetaria. Una crescita dell'eurozona che continua ma a passo moderato, a pesare soprattutto la debolezza del settore manifatturiero. Based on our regular economic and monetary analysis, chiudendo il primo consiglio direttivo dell'anno a Francoforte, la presidente BCE Christine Lagarde anticipa che i tassi della Banca Centrale Europea resteranno sui livelli attuali o più bassi finché le prospettive dell'inflazione convergeranno robustamente vicino al 2%, mentre il quantitative easing, ripreso a inizio novembre, continuerà finché servirà. Francoforte, che ha lasciato il tasso principale fermo a zero, ha comunicato di aver deciso l'avvio di un riesame della strategia di politica monetaria, riesame che, secondo proprio la Lagarde, sarà ad ampio raggio e durerà per tutto l'anno. La Lagarde ha toccato in conferenza stampa diverse questioni, quali il clima, la responsabilità di tutti combattere i cambiamenti climatici, la questione sarà presa in considerazione durante la revisione della strategia, o la crisi commerciale. La BCE monitorerà con grande attenzione le vicende sul commercio internazionale, fino al tema del debito che affligge paesi come l'Italia. I paesi più indebitati dell'eurozona devono perseguire politiche di bilancio prudenti, ha detto la Lagarde. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, per quanto riguarda l'economia italiana, un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a 40.000 euro, cioè le tasse nella busta paga dei dipendenti, con un alleggerimento in busta paga che può arrivare per chi guadagni fino a 28.000 euro fino a un massimo di 600 euro in 6 mesi a partire da luglio. E quanto prevede il decreto legge che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri proprio in queste ore. Dall'INPS intanto un'istantanea sui contratti di lavoro. Il 2019 si chiude con un'impennata della cassa integrazione. Lo scorso anno l'INPS ha infatti autorizzato alle aziende oltre 259 milioni di ore, registrando così una crescita del 20,2%, primo incremento annuale dal 2012. A spingere la risalita è soprattutto la cassa integrazione straordinaria, aumentata del 31,2%. Una cartina di tornasole delle crisi aziendali, dice il presidente del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, Guglielmo Loi. Intere filiere o alcune grandi aziende sono andate in grave crisi. Pensi che se solo l'Ilva richiede cassa integrazione per 1.000, 2.000, 3.000 persone, porta il dato molto in alto. Poi ci sono stati altri casi, metalmeccanica. Oltre alla cassa integrazione, nei primi 11 mesi dello scorso anno sono però cresciuti anche i contratti stabili, che hanno superato quota 438.000, segnando un incremento del 111% su base annua. I contratti stabili continuano a crescere soprattutto grazie all'aumento delle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero ancora, l'accordo sulla Brexit raggiunto dal primo ministro britannico Boris Johnson con Bruxelles è da oggi legge nel Regno Unito. Lo ha sancito la regina apponendo la sua firma sotto il testo dello European Union Withdrawal Agreement Act, che ieri aveva concluso l'iter di ratifica parlamentare a Westminster. Primo via libera anche dell'Europarlamento con il sì della Commissione Affari Costituzionali. Ancora all'estero, la Casa Bianca farà domani un annuncio relativo al piano di pace del presidente Donald Trump sul Medio Oriente, il tanto atteso accordo del secolo, come lo definisce. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui inoltre il primo ministro uscente israeliano Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz si preparano a partire nei prossimi giorni per Washington. E poi il forum mondiale a Gerusalemme dell'Olocausto in svolgimento appunto in questi giorni. Mai abbassare la guardia, avverte il presidente della Repubblica Mattarella. Restare uniti contro le forze radicali che diffondono odio e distruzione e non abbassare mai la guardia, perché nessuna democrazia è immune dall'antisemitismo, è questo l'appello rivolto dal presidente israeliano Rivlin ai 50 capi di Stato arrivati da tutto il mondo a Gerusalemme per il Forum internazionale sull'antisemitismo e la Shoah, un appuntamento che cade a 75 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Nel corso di una cerimonia solenne è stata deposta una corona nel memoriale dell'Olocausto di Yad Vashem a rappresentare l'Italia, il presidente della Repubblica Mattarella, che ha condiviso le parole di Rivlin. Un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l'attenzione, la vigilanza contro l'antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo, perché il male, la stupidità, la violenza, l'odio sono sempre presenti in maniera sotterranea e qualche volta, come vediamo purtroppo, affiorano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una notizia che arriva dalla Turchia: dopo averla ritirata nel 2016 a seguito di forti proteste e dell'indignazione dell'opinione pubblica, l'HP del presidente Erdogan, il partito del presidente turco, rilancia una proposta di legge per reintrodurre in Turchia il matrimonio riparatore. Se approvata, la norma potrebbe salvare dalle conseguenze penali gli autori di violenze sessuali contro le donne in caso di successive nozze. Corruzione. L'Italia è al 51esimo posto nel mondo nella classifica della percezione della corruzione del Transparency International, un piccolo ma significativo passo avanti, secondo il ministro della giustizia Bonafede, a un anno dall'introduzione della legge spazza corrotti. Il paese guadagna infatti un punto, è al 53esimo, era prima al 53esimo, e due posizioni rispetto all'anno scorso, ed è appagliato ad Arabia Saudita, Ruanda e un gradino sotto Malta. Ma la classifica dell'indice di percezione della corruzione in 180 paesi segnala due questioni: l'Italia è lontana dalla sufficienza, pur avendo guadagnato ben 12 punti dal 2012, e rallenta la scalata a una classifica dominata anche quest'anno da Danimarca e Nuova Zelanda, e nella quale fanno bella figura anche Finlandia e Svezia. La cronaca: scoperti nella Locride dalle fiamme gialle centinaia di evasori totali, tra cui molti percepivano il reddito di cittadinanza da 9 mesi, ma avevano ville e veicoli di lusso, smascherati da un'indagine coordinata dalla Procura, nata da una precedente inchiesta sui falsi braccianti agricoli e sui falsi rimborsi fiscali in Calabria. Avevano ville e veicoli di lusso, perfino una Ferrari, ma risultavano nullatenenti e percepivano da 9 mesi il reddito di cittadinanza. Ed erano anche titolari di partita IVA ed imprese, alcuni con redditi anche oltre 55.000 euro. Avevano dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi, alcuni in carcere perché mafiosi. 310 denunciati, di cui 237 furbetti evasori, insieme ad altri 73 che avevano sottoscritto falsi documenti con cui tra aprile e dicembre del 2019 hanno chiesto il reddito di cittadinanza e che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri e avranno conseguenze, come spiega il capitano Giorgio Silvestri. Le somme indebitamente percepite ammontano a circa 870.000 euro. La cosa che però è stato possibile fare è stata quella di segnalare questi nominativi all'INPS, che oltre al recupero di questa somma provvederà al blocco dell'erogazione, permettendo così alle casse statali di non erogare contributo per circa 1 milione di euro. I furbetti sono quindi stati segnalati all'INPS per il blocco del pagamento del reddito per i prossimi mesi e per le sanzioni per le false DSU, dichiarazioni sostitutive uniche, alla base della richiesta di reddito. Dovranno restituire e ci saranno delle sanzioni che saranno comminate dalla Procura e dall'INPS. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'aria inquinata, un pericolo per la salute. I dati del rapporto malaria di Legambiente certificano una situazione pesante per molti capoluoghi italiani. Bene gli accordi che sono in campo, come quelli di Bacino Padano, dice Legambiente, ma non bastano. Bisogna coinvolgere anche gli altri settori inquinanti, quelli industriale, energetico, portuale, l'agricoltura. I dati del rapporto malaria sono pesanti. In questo primo scorcio del 2020, Frosinone, Milano, Padova, Torino, Treviso hanno già consumato quasi la metà dei giorni di sforamento dei livelli di PM10 ammessi all'anno dalle direttive europee. Torino è stata la città italiana con i dati peggiori sia lo scorso anno che nel periodo 2010-2019. Ma nello stesso arco di tempo anche il 28% delle città monitorate ha superato i limiti giornalieri di polveri sottili tutti gli anni. La minaccia per la salute umana è serissima, ricorda invece Legambiente. Ogni anno sono oltre 60.000 le morti premature in Italia riconducibili all'inquinamento, con un danno economico di milioni, stimato sulla base dei costi sanitari, e senza contare le sanzioni europee e le azioni legali già intraprese da cittadini e associazioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da segnalare l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle sigarette elettroniche, di cui parleremo nel corso di questa puntata. Il pericolo, dice l'OMS, è soprattutto per gli adolescenti, perché potrebbe arrecare danni al loro cervello in sviluppo. E poi vi ricordate, giorni fa si anticipava la notizia che oggi sarebbero state spostate le lancette dell'orologio dell'Apocalisse. Il mondo è più vicino alla catastrofe rispetto all'anno scorso, perché le lancette dell'orologio dell'Apocalisse sono state spostate avanti a 100 secondi alla mezzanotte contro i 2 minuti del 2019. La Federazione degli Scienziati Atomici ha deciso lo spostamento in seguito alle crescenti incertezze. Creato nel 1947 durante la Guerra Fredda, l'orologio scandisce il tempo che l'umanità ha davanti a sé per evitare una catastrofe dovuta alle armi nucleari o ai cambiamenti climatici. L'orologio è aggiornato ogni anno. Nel 2019 era stato stabilito che all'umanità restavano appena 2 minuti per evitare una catastrofe, proprio come era accaduto nel 2018 e nel 1953. È chiaramente una questione simbolica, ma è come lanciare un'allerta internazionale. Per chiudere, parliamo di archeologia. Potrebbe appartenere a Plinio il Vecchio il misterioso cranio conservato all'Accademia di Arte Sanitaria di Roma. Lo indicano i risultati di 2 anni di ricerche coordinate dal giornalista e storico dell'arte Andrea Cionci, che sarà ospite qui a Effetto Notte nel corso di questa puntata, in collaborazione con esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università Sapienza di Roma, di Firenze e di Macerata. Bene, con questa notizia si chiude la sintesi della giornata, così possiamo tuffarci nel cuore degli argomenti tra pochissimo con diversi ospiti. Per i vostri messaggi ve lo ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, quindi dopo avervi riassunto la giornata cominciamo a vedere quali sono le notizie in primo piano che vanno approfondite con gli ospiti. Tra poco vi ricordo anche quali sono i titoli principali se non aveste acceso puntualmente alle 21. Intanto vedo molti vostri messaggi sulla, per esempio sulla questione della Turchia. Vi davo questa notizia che vuole il partito del presidente Erdogan ripristinare il matrimonio riparatore in caso di violenza sessuale nei confronti delle donne per evitare il carcere agli stupratori. Stefano dice: un passo avanti, noi ce l'avevamo fino al 1981, ancora 40 anni e anche la Turchia inizierà a riconsiderare la faccenda. In realtà non era il matrimonio riparatore tanto fino al 1981 che avevamo, ma il delitto d'onore, cioè c'erano un sacco di attenuanti per gli uomini che uccidevano le donne perché ritenevano fossero state traditrici, fedifraghe, eccetera eccetera. Una vergogna certo che piuttosto recente per quanto ci riguarda. Stefano dice: sembra una tendenza mondiale questa di arretrare. Andrea: benvenuti nell'anno 1000 e mi raccomando facciamoli entrare nell'Unione Europea, a proposito di Turchia. Poi Giovanna, che esprime orrore, dice: dove andremo a finire? Vi ricordo allora i titoli principali di questa giornata. Le battute finali di campagna elettorale con annessi e connessi, di cui parleremo tra poco. La Cassazione che dà il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. Il virus cinese, Pechino chiude la città proibita, 25 morti in Cina, casi sospetti in Europa. È escluso che la donna sotto osservazione ricoverata al Policlinico di Bari sia collegata al coronavirus, ma comunque per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il momento è troppo presto per parlare di emergenza sanitaria internazionale. Inquinamento, lo dicevamo che in questo mese di gennaio sono stati 18 giorni di sforamento per 5 città. L'allarme dell'OMS sulle sigarette elettroniche, che dice danneggiano soprattutto il cervello degli adolescenti, ce ne occuperemo. Brexit, l'accordo in vigore, c'è la firma della regina per la Turchia. Avete sentito questa notizia terribile. Poi il reddito di cittadinanza, ville, Ferrari e imprese, scoperti 237 furbetti. L'ascoltatore Francesco dice: parlate non più di furbetti ma di banali evasori. Quelli sono archeologia. Il cranio misterioso all'Accademia d'Arte Sanitaria di Roma potrebbe essere di Plinio il Vecchio. C'è una signora che io conosco da 26 anni, non me l'ha mai data, però l'ho avuta non solo come parlamentare nei miei gruppi parlamentari, ma l'ho avuta anche nei miei governi. Sono giorni, come sentite, di altissima intensità politica tra citofoni, sardine, dimissioni, processi autorizzati da se stessi e diserzioni politiche, lacrime nei comizi, sentenze della Cassazione che sembrerebbero, almeno in parte, ribaltare le decisioni della Consulta, interrogativi sulla tenuta del governo, piazze contrapposte, battute su candidate che non la danno. In tutto a 3 giorni praticamente dalle elezioni regionali che ci saranno in Emilia-Romagna e in Calabria. Per cercare di fare un po' di ordine in tutta questa giostra impazzita, l'indicazione potrebbe essere citofonare Betta Fiorito. Allora, Rispondi, Betta, ci sei. Buonasera. Siamo contentissimi che Iole Santelli non l'abbia data a Silvio Berlusconi illo tempore. Sì. Illo tempore, una notizia, una delle poche che non è caduta nella rete di questo fascino di Berlusconi. Sì, di questo Pygmalion all'incontrario. Però il problema mi sembra anche un po' che queste battute di Berlusconi prefigurino sempre di più la fine di Forza Italia. Cioè un leader forse giusto la Carfagna potrebbe salvare Forza Italia, a meno che non ne voglia. Sì, facendo una Forza Italia forse diversa, auspicabile, con una donna al comando anche abbastanza passionaria su certi temi, soprattutto per i diritti delle donne, per i diritti delle minoranze, per i diritti dei gay. Quindi sì, forse potrebbe essere il futuro di Forza Italia, altrimenti il futuro di Forza Italia lo vedo che non c'è effettivamente, quando un Berlusconi ancora fa queste battute ricordiamolo, cioè, su Iole Santelli, un po' anziana, che è la candidata, no? Un po' di Forza Italia alla presidenza della Calabria, non era una che passava di lì di là, no? Che sì, no, e poi dignità. Soprattutto la conosciamo tutti, nel senso che è una parlamentare di lungo corso, è sempre stata una passionaria nelle battaglie di Forza Italia, è sempre stata anche molto presenzialista a Montecitorio. Quindi dire e poi ridurre una parlamentare una battuta così e mi sembra un pochino di una, ecco, diciamo, se vogliamo essere gentili, di una persona anziana, no, che vuole fare per forza la battuta. Betta, lasciamo stare per un momento il tuo citofono invece, Raffaella Calandra, adesso. Eccoci sei. Eccoci qua, Roberta. Perché Raffaella invece seguiva nel tardo pomeriggio le piazze di Bibbiano. Bibbiano, lo sapete, è la cittadina dell'Emilia Romagna che è coinvolta in questa inchiesta di presunti abusi negli affidi di minori e che è stata cavalcata molto dalla politica in modo strumentale. E lì è l'ultima tappa, praticamente, Raffaella, della campagna elettorale di Salvini, della Lega di Matteo Salvini. E dall'altra parte, contro manifestazione a 400 metri di distanza in un'altra piazza, sempre a Bibbiano, oggi delle sardine che hanno fatto grande festa. Ci fai un'istantanea breve di quello che è stato questo piazza emotiva evento. Soprattutto con la coreografia curata fino ad ogni dettaglio, con sfondo rosso, con la scritta giù le mani dai bambini, le quattro persone con tre storie diverse che sul palco hanno raccontato storie difficili del passato, di affidi complicati e introdotta dallo stesso Matteo Salvini in un'insolita dimensione commossa, anche ha introdotto la mamma di Tommy Onofri, il bimbo che era stato sequestrato e ucciso anni fa a Parma, che ha ringraziato la Lega per essere stata invitata, come hanno ringraziato praticamente tutte e tre le persone che hanno parlato con delle storie diverse. Tutto curato in ogni dettaglio, i pupazzi di bambini, la folla che ha urlato vergogna, vergogna contro questi casi, gli slogan e le incitazioni per Salvini e Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega per l'Emilia Romagna, in un crescendo di emotività per questa che sicuramente è stata la piazza più sensibile, più delicata, più difficile, ma anche il simbolo anche un po' del tipo di campagna elettorale che la Lega ha voluto fare in Emilia Romagna, una campagna elettorale molto show. Dall'altra parte abbiamo visto anche le lacrime di Salvini, se non sbaglio. Appunto, come dicevo, ha presentato la mamma di Tommy Onofri con un momento, diciamo, di commozione. Dall'altra parte lui stesso ha introdotto la serata dicendo che questa non era una serata di partiti, ma è una serata in cui invocava l'unità della politica perché si trattava di bambini. Vogliamo sentire questo passaggio dove dice, appunto, siamo qui a Bibbiano per il bene dei bambini e questo ci deve unire. E mi spiace se a qualche metro di distanza qualcuno sarà qui a far polemica, perché il bene dei bambini dovrebbe unire tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi. La politica non dovrebbe dividersi, ma se questa non doveva essere una serata politica, era difficile che non lo fosse, visto che era l'apice della campagna elettorale su cui la Lega sta puntando di tutto. E praticamente poi dopo il momento dell'emozione ci sono stati gli interventi ancora di Salvini, che a quel punto è ritornato sulla droga, sulla necessità di cambiare la riforma della giustizia, di cambiare la legge sugli affidi, e della Borgonzoni che è tornata su questioni anche più locali. Accanto, come ricordavi, le sardine che hanno protestato proprio sentiamo perché... Sentiamo un po' di clima, atmosfera della piazza delle sardine a 400 metri di distanza più o meno, no? Da quella di Salvini. La musica appunto di sottofondo, varie persone che si sono alternate al microfono. Hanno chiuso con un bella ciao strumentale. Con visto un bella anche. Ciao che è un po' la cifra, la colonna sonora appunto delle strumentale sardine. Nel senso con gli strumenti, ecco, sì, senza parole. Esatto. E con un invito a pensare ciascuno con la propria testa. Di fatto hanno contestato alla Lega una strumentalizzazione del dolore per fini elettorali. Insomma, questa campagna elettorale ogni giorno ha un crescendo, e fino a appunto domenica, che sarà il giorno del voto. E che tu anche tu seguirai. Grazie Raffaella Calandra, proprio dall'Emilia Romagna. Grazie a te, Roberta. Ciao Raffaella. Torniamo invece a citofonare, abbiamo già citofonato a Betta Fiorito, e quindi non so, forse si è addormentata, vogliamo ricitofonare? No. Sei lì. Allora, mi diverte questa cosa che Bibbiano, no? È tipo il centro del mondo oramai, no? Allora c'era questo paesino blindato in cui io immagino che insomma non sia così grande, cioè io vivo a Roma, quindi forse un pochino più piccolo della mia città. Beh, decisamente, in cui praticamente sì. c'erano io ho visto cellulari della polizia, dei carabinieri, le due piazze divise, cioè, che erano tre metri una dall'altra, no? Immaginiamo un paese normale in cui uno ha una via maestra, no? Queste cose, le vie laterali, queste, e quindi diventa lo scenario. Allora, quello che è successo a Bibbiano è importante assolutamente dire che la magistratura deve fare chiarezza e se ci sono stati abusi devono essere assolutamente puniti, i bambini vanno rispettati, e su questo siamo tutti d'accordo. Dopodiché è diventato praticamente uno show, cioè io le lacrime di Salvini mi ricordano un po' Piange il telefono, capito? Queste cose, lui devo dire è fantastico, sì, ma cioè lui è oramai un battitore libero, capito? Quindi lui sta facendo, come io ho detto anche nei giorni scorsi con te, una campagna elettorale veramente tappetino per tappetino, anche con qualche gaffe come il citofono al povero ragazzo tunisino, che se mai dovesse essere scoperto per aver spacciato droga, ma non mi sembra il caso, sarà anche questo compito della magistratura e non della politica. Quindi io dico che tutto questo è molto molto particolare, anche questa Bibbiano che stasera diventa un po' il centro del mondo. Mi ricordo quando si diceva che, sai, a Spoleto, per esempio, si dice che siccome l'Umbria è al centro dell'Italia, Spoleto è al centro dell'Umbria, Spoleto è il centro del mondo. Ecco, questo è un po' Bibbiano del mondo, questa praticamente. Sera. Lidia dice, se sì, si vuole fare il bene dei bambini, dice Lidia, non bisogna strumentalizzarli. Senti, invece, passando al Partito Democratico, allora ieri ho parlato lungamente qui in questa puntata con Lina Palmerini delle dimissioni di Di Maio da capo politico, che diciamo erano nell'aria già da un po', poi ieri ufficializzato in questo lungo discorso a tempo Adriano. È riuscito a parlare 30-40 minuti, non si può dire che anche lui non sia un comunicatore, comunque Di Maio, e poi a questo punto ci si chiede, parte ovviamente il futuro del Movimento 5 Stelle, per il momento retto da Vito Crimi fino agli Stati Generali, quando poi si capirà quale sarà il successore di Di Maio. Dall'altro bisogna capire se la maggioranza di cui Di Maio è parte molto importante reggerà. A proposito, tu ci puoi svelare, magari tu che sei addentro le segrete stanze in diretta dai Palazzi Romani, dove io ho citofonato Betta, chi potrebbe essere il successore di Di Maio? È vero che si vocifera possa essere Patuanelli? Ma Di Maio stesso? Succede a se stesso, tu dici? Ma c'è, allora, lì il problema è questo: chi comanda nel Movimento 5 Stelle? Le dimissioni di Di Maio hanno fatto capire che comanda sempre Beppe Grillo. Beppe Grillo vuole l'alleanza con il PD e quindi ha già un suo uomo in pole position, che è Stefano Patuanelli. Dall'altra parte c'è Di Maio, Di Battista, che vorrebbe un po' fare le scarpe a Di Maio, però anche no, quindi Di Maio oggi ha detto: ma io e Alessandro siamo amici, sono amici fratelli, cioè, tipo diciamo. Red e Toby, no, tipo Red e Toby amici e nemici, capito? Fratelli coltelli, non si capisce. Hai visto un po' di cartoni animati, sì. Però Sì. E certo, questo è importante, e nella cultura generale. È chiaro, ma il nostro la cosa fondamentale è che a metà marzo finalmente però i radioascoltatori possono essere certi che ci sarà il primo vero congresso del Movimento 5 Stelle. Oh, e staremo a vedere. Quindi che cosa sarà, succede. Sì. Che ci sarà Paduanelli che sfida Di Maio, bisogna vedere che cosa succede, bisogna vedere però se dopo il primo congresso del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ci sarà ancora. Questo è beh, il problema. Non essere così pessimista, perché? Catastrofista dell'Apocalisse, l'Apocalisse riguarda altre cose, cioè, non riguarda no, il Movimento 5 Stelle. Sai, lo dicono sempre, da sempre, del Partito Democratico anche, quindi cioè, è normale che quando un movimento si struttura poi abbia delle correnti, abbia delle contrapposizioni, abbia delle forze centrifughe, eccetera, eccetera. Senti, che a noi ci fa molto piacere, perché vuol dire che c'è democrazia all'interno di quella, di quella forza politica. Molto di cui parlare. E per quanto riguarda invece appunto il Partito Democratico, Zingaretti oggi si è detto ottimista, dice va bene, anche dopo le dimissioni di Maio da capo politico, l'alleanza di governo è indiscussa. Io avverto un clima che sta diventando più unitario. Nessuno ha messo in discussione l'alleanza, anzi c'è lo sviluppo di un dibattito che è tutto pruiuto. Io penso che il governo si rafforzi o si indebolisce a seconda di quanto fa e quanto non fa, e questo è un governo che ha affrontato una delle più drammatiche manovre economiche per colpa di Salvini degli ultimi anni, l'ha superata e ora comincia a raccogliere i risultati per il bene delle persone. E poi dice ci vuole nella politica più passione e meno odio. Quello che sta dando forza al governo è il fatto che comincia a raccogliere i risultati. Bisogna aprire una nuova fase per riaccendere i motori dell'economia. Per questo occorrono meno polemiche e più fatti, meno cultura dell'odio e più passione per cambiare questo paese. Questo io credo che sarà rafforza e rafforzerà la squadra di governo, perché sono le cose che interessano le persone, il lavoro, la crescita, lo sviluppo, la green economy, e non la rabbia, l'odio, le paure, le polemiche, la zizzania che si cerca di mettere nella politica. E anche Di Maio ieri, fra le tante cose che ha detto io mi dimetto ma il governo va avanti, anzi l'alleanza c'è sempre. Oggi l'ha riconfermata Spadafora, ministro 5 Stelle dello sport, che ha detto andiamo avanti a prescindere anche da quello che succederà in Emilia Romagna, perché sappiamo che le elezioni, soprattutto in Emilia Romagna, di domenica, insomma, a seconda di chi vincerà, qualche incidenza sul governo nazionale potrebbero forse averla, anche se gli alleati della maggioranza dicono di no, mentre l'opposizione ritiene di sì. Ma insomma, Zingaretti mi sembra mettiamo i fiori sui vostri cannoni, una cosa così, no? Peace oppure and love, California Dreaming, no? Cielo grigio giù, su, foglie gialle giù, sogno sì. California. Mm. Ecco, ma ora sta California, andò sta Roberta? Negli Stati Uniti. Parliamoci chiaro. Qui c'è un problema fondamentale che si chiama elezioni in Emilia Romagna. Se le elezioni in Emilia Romagna vengono perse dal centro-sinistra, si crea un problema molto forte. Anche per questo Gigino ieri si è tolto la cravatta, visto che lui a un certo punto non ha più la cravatta, oggi però sarebbe dovuta rimettere perché è sempre ministro degli esteri. È chiaro, lui ha detto sono stato il primo a metterla di voi del Movimento 5 Stelle, adesso ce l'avete tutta, le donne non l'ho viste con le cravatte, ma insomma, comunque. Insomma, a un certo punto praticamente lui oggi sarebbe dovuta rimettere perché poi faceva il ministro degli esteri, quindi sono tutte sceneggiate. Il problema è un altro, il problema può il governo sopravvivere a una sconfitta in Emilia Romagna del PD? Primo, questa è la prima domanda. Seconda domanda, abbiamo la Cassazione che ha accettato il referendum. Ecco, infatti la Consulta giorni fa aveva detto che aveva degli aspetti incostituzionali, la Cassazione oggi ha detto no, questo referendum voluto con 71 firme di senatori eccetera eccetera si farà perché è ammissibile. Sono due cose ecco, differenti. Ecco, spiegacele tu cioè, molto la brevemente. Consulta, sì. Allora, la Consulta, la Corte Costituzionale, ha, sì. Praticamente la Consulta si è espressa, la Corte Costituzionale, sul referendum che voleva la Lega per l'abolizione della quota proporzionale dell'attuale legge elettorale. È vero, scusami, sì, questo è vero, era per far diventare il sistema maggioritario, invece questo era sul taglio dei parlamentari. Questo però è anche connesso a questa cosa, cioè andava ad impattare, avrebbe dato troppo potere al governo per decidere i collegi, a quel punto uninominali, con la nuova legge elettorale che taglia il numero dei parlamentari. Sì, ok? Quindi cioè, tutto quanto un po' incastrato. Sì, però il referendum sul taglio del numero dei parlamentari presentati da 71 senatori, fra cui alcuni della Lega, è contro il taglio del numero dei parlamentari. Questo referendum, si farà. Diciamocelo. Senti, c'è un ascoltatore, scusa, aspetta, c'è un ascoltatore che addirittura sente evidentemente Radio 24 24 ore su 24 e fa bene alla salute, ha detto però la Fiorito nel servizio fatto da lei durante il GR 24 alle 19, quindi attentissimo, ha affermato a proposito del referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari che la legge di riforma costituzionale verrà confermata dal popolo al 100%, anche il 4/12/2016 sì. Dice eravate sicuri, quello di Renzi, del sì al referendum di Renzi, poi abbiamo visto come è andata a finire. Betta, dai una risposta velocissima, ratta con la Folgore, che dobbiamo lasciarci. Allora, questo referendum, il problema delle elezioni anticipate si impatta col referendum, perché il Presidente della Repubblica non farà mai un'elezione con la vecchia legge se non si vota prima il referendum. Questo è il problema se il governo cade da qui a poco. Bene. Al radioascoltatore io rispondo semplicemente che i sondaggi danno all'86% degli italiani, anche 90%, favorevoli, al taglio, favorevoli al taglio dei parlamentari. Chissà mai. Quindi è chiaro che intanto questo referendum è confermativo, non c'è bisogno del quorum, eccetera. Mi sembrerebbe molto strano che possa poi passare. In senso diverso. Questo chiaro. Indipendentemente dalle mie opinioni personali. Benissimo. Io non sono così sicura che questo taglio vada bene. Però questo è quello che hanno votato. Benissimo, ci dobbiamo lasciare, Carabetta? Grazie a voi. E non andare a citofonare a tutti in giro, per favore. Ciao, Betta. No, ma stai soprattutto tranquilla. Non spacciare droga, va Roberta. No, non spacciare droga. No, ciao. Soltanto quella creva che si spalma, il cioccolato. Qui ci fermiamo brevemente. Pausa di sospensione, di riflessione, anche di respiro. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti e riflessioni. Se no, inviateli a sms e whatsapp al 349-238-6666. Mi mangio sempre le parole. Ratta con la Folgore, torno. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvisare per onestà, è un programma che dà dipendenza, parola di Roberto Giordano che vi accompagna tutte le sere in questa sfida per cercare di sintetizzare la maggior parte di notizie importanti da sapere dall'Italia e dall'estero e poi gli approfondimenti con gli ospiti e i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. È il momento di aggiornarci sul virus che viene dalla Cina, il virus che pare sia arrivato agli esseri umani dai serpenti, il bungaro fascista. Il cobra cinese, sarebbe nel loro organismo che un virus proveniente dai pipistrelli si è ricombinato geneticamente con un virus simile tipico dei serpenti, dando origine al virus 2019 NCoV contagioso per gli esseri umani. Questo scrivono i ricercatori cinesi, gli animali che era possibile trovare nel mercato di Wuhan, evidentemente sono questi serpenti dove sono avvenuti i primi contagi. Per riassumere un po' la situazione, sale un po' la paura del contagio a livello internazionale. I morti in Cina sono finora 25, i casi di contagio accertati 616, ma i primi casi sospetti si registrano anche in Europa, 4 casi sospetti in Scozia, è stato escluso quello in Francia di cui si parlava oggi e poco fa per fortuna anche quello di una donna ricoverata in ospedale a Bari. Intanto le autorità cinesi hanno chiuso la città proibita di Pechino, annullato le feste per il Capodanno, anche Wangang dopo la città di Wuhan, la città focolaio del coronavirus, è stata messa in quarantena, primo caso di contagio a Singapore, secondo a Macao. Misure per fronteggiare l'emergenza sono state prese anche in Italia. Sentiamo a questo proposito proprio il ministro Speranza della Salute. Io stamattina ho personalmente sentito la nostra commissaria europea alla salute. Credo che sia indispensabile mantenere il massimo raccordo interistituzionale. Il Ministero della Salute è già attivo, da 2 giorni c'è una task force impegnata che si è riunita da ultimo anche stamattina alla mia presenza. I controlli negli aeroporti sono molto costanti e serrati e continuiamo a fare tutto quello che è necessario perché questo fenomeno venga posto sotto controllo. Saluto Maria Rita Gismondi, virologa, responsabile del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica e bioemergenze dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Dottoressa Gismondi, buonasera e grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi. Allora, oggi si aspettava la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come anche le autorità europee si è riunita in una riunione straordinaria tra ieri e oggi, poco fa, ha espresso il parere che è troppo presto, ha detto, per dichiarare un'emergenza di salute pubblica di livello internazionale per l'epidemia causata dal nuovo coronavirus. Quindi, per il momento, insomma, evidentemente la situazione è ancora sotto controllo. Assolutamente sì, i casi sono relativamente pochi e soprattutto una grande novità, la Cina è intervenuta con tanta trasparenza adottando subito delle misure drastiche che sono, penso, abbastanza idonee a rompere il contagio, l'anello del contagio. Finalmente la SARS ci ha insegnato qualcosa, ce lo siamo ricordati: essere trasparenti, a collaborare a livello internazionale è l'unica soluzione per arginare un fenomeno del genere. Vedevo ancora altre dichiarazioni, per esempio dice il direttore generale dell'OMS: non dichiaro l'emergenza di salute internazionale, per il presidente del comitato è troppo presto per considerare questo evento appunto un'emergenza globale, eccetera eccetera, dice insomma ancora non c'è pericolo effettivo. Ma dottoressa Gismondo, ci si sta mobilitando per creare un vaccino? È troppo presto per parlarne. Tutte le volte che c'è un'emergenza infettivologica, certamente i ricercatori cercano di porre rimedio con una vaccinazione. Un vaccino implica uno studio approfondito e anche dei trial clinici, quindi non si può pensare a un vaccino che metta in atto come disponibilità alla popolazione da qui a pochi mesi. Questo è successo anche con l'Ebola, abbiamo dei vaccini in sperimentazione ancora, quindi non possiamo affidare la soluzione del caso al vaccino. Dobbiamo invece adottare tutte quelle misure, il ministro Speranza mi ha preceduto e ha detto assolutamente tutti i concetti che condivido, misure di attenzione con task force che tengono sotto osservazione la situazione locale e soprattutto una rete di collaborazione a livello nazionale e internazionale. Questo sta avvenendo. Grazie, insomma, per il momento quindi ci fermiamo a queste rassicurazioni. Grazie alla dottoressa Maria Rita Gismondo. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, ricordo del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica e bioemergenze dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. E con questo vi abbiamo... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, affrontiamo adesso il tema delle sigarette elettroniche, strumenti molto diffusi negli ultimi anni, insomma lo sappiamo, tra chi vuole smettere di fumare le sigarette tradizionali, chi magari le utilizza anche un po' come un ciuccio, diciamo, ludico consolatorio, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme, dice: le sigarette elettroniche sono dannose per la salute, non sono sicure, possono danneggiare il feto in crescita, sono particolarmente rischiose per lo sviluppo del cervello degli adolescenti. Quindi dice l'OMS, laddove non siano vietate devono essere regolamentate. Allora chiedo lumi a Chiara Veronese, che è farmacologa del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale di Tumori di Milano. Buonasera dottoressa Veronese. Buonasera. Allora, sì. Fino a qualche tempo fa, sì, soprattutto coloro che, medici eccetera, che si occupano di campagne antifumo, hanno detto comunque sono meno dannose delle sigarette tradizionali e quindi non bisogna demonizzarle. Forse bisognerebbe, certo, diciamo, dividere, distinguere tra le politiche che tutelano i non fumatori e i giovani da una parte e dalle politiche di aiuto ai fumatori? Dottoressa Veronese? Sì, assolutamente, in quanto l'adulto che cerca di smettere di fumare attraverso la sigaretta elettronica non deve essere assolutamente demonizzato, in quanto comunque ancora siamo nell'ottica della riduzione del danno. È anche vero che non ci sono ancora evidenze sufficienti che dimostrino come il loro uso sia efficace nella disossefazione dal fumo, dimostrazioni che invece sono assolutamente molto chiare per quanto riguarda sia i farmaci che le terapie nicotiniche sostitutive. Per i giovani è tutt'altro discorso, in quanto i ragazzi partono per gioco, purtroppo per moda, per emulazione, a iniziare a utilizzare questi dispositivi elettronici che nella maggior parte dei casi vanno a esalare nicotina. Cosa succede? Che per i giovani la nicotina è particolarmente pericolosa, in quanto proprio la maturazione cerebrale procede dinamicamente durante l'adolescenza, arriva fino di fatto ai 20-25 anni. Quindi l'uso di queste sostanze d'abuso, come ad esempio la nicotina a tutti gli effetti è una sostanza d'abuso, durante questo periodo particolarmente critico può avere effetti specifici sullo sviluppo e proprio sulla struttura, sull'organizzazione a livello neuronale. Inoltre è stato dimostrato come l'uso di questi dispositivi porti i giovani ad avvicinarsi poi maggiormente alle sigarette elettroniche, alle sigarette tradizionali, quindi c'è una sorta di iniziazione al tabagismo. Però dottoressa Veronese, diciamo anche appunto, quindi è bene disincentivare anche per i genitori che si sentissero rassicurati dal fatto che i figli fumano, svapano, si dice, queste sigarette elettroniche, in realtà i pericoli di danni, di rischi ci sono comunque. Poi diciamo che anche coloro che fumano passivamente la sigaretta elettronica, insomma, hanno tutto il diritto di non inalare, no? Certo, questi vapori. Certo. Assolutamente, non sono innocui perché comunque vanno a contenere delle sostanze chimiche come il glicolepropilenico, la glicerina, la nicotina a concentrazioni differenti, e soprattutto tantissimi aromi sono stati classificati, quindi circa 15.000 aromi molto attrattivi soprattutto per i giovani, e quindi queste sostanze hanno dimostrato causare comunque uno stato infiammatorio a livello delle vie aeree, una riduzione delle risposte del sistema immunitario, comunque tutta una sintomatologia legata all'apparato respiratorio. Stesso discorso per il vapore passivo, che dovrebbe essere preso in considerazione come il fumo passivo, e quindi sono sempre più necessarie delle rigide normative che vanno a monitorare e a regolarizzare soprattutto l'utilizzo indoor di questi dispositivi elettronici, il loro utilizzo negli luoghi pubblici, soprattutto in presenza di bambini, di minori, di donne in gravidanza e di soggetti a rischio. Chiarissima, grazie dottoressa Chiara Veronese dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Plim, plim, plim, plinio, nome latinio, viene dall'ario. A chi appartiene il misterioso cranio conservato nel Museo dell'Accademia di Arte Sanitaria di Roma? Lo sentite dalla canzone che ho recuperato dei Du Perdu. Potrebbe appartenere a Plinio il Vecchio. Gaio Plinio II, conosciuto appunto come Plinio il Vecchio, scrittore, filosofo, naturalista, comandante militare, uomo politico, nato a Como appunto nel 23 d.C., vittima poi dell'eruzione del Vesuvio che ci fu nel 79 d.C. sulla spiaggia di Stabia. Spiaggia di Stabia dove nel 1900 vennero rinvenuti 70 scheletri. E peraltro lui, Plinio il Vecchio, fu colui che organizzò la prima protezione civile documentata dalla storia. I risultati di questi due anni di ricerche per appunto capire a chi appartiene questo cranio misterioso sono state coordinate dal giornalista e storico dell'arte Andrea Cionci in collaborazione con esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con l'Università di Sapienza di Roma, di Firenze e di Macerata. E allora è ospite proprio qui a Effetto Notte Andrea Cionci. Buonasera Andrea. Buonasera, grazie agli ascoltatori, grazie a Radio 24. Quindi effettivamente questo cranio potrebbe appartenere a un personaggio così illustre? Questo cranio è sempre stato attribuito tradizionalmente a Plinio. Durante degli scavi nel 1900 vennero alla luce appunto questi scheletri, e uno di questi aveva indosso un corredo veramente di eccezione. Aveva al collo una pesante collana d'oro, delle armille, ovvero dei bracciali d'oro con delle teste di vipera, un anello d'oro molto pesante alla mano destra e soprattutto un cosiddetto parazonio. Il parazonio era un gladio, uno spadino, diciamo così, preziosissimo, di oro, d'argento, ambra e altri materiali preziosi, che veniva dato in dono solamente ad altissimi tribuni. Per fare un esempio, oggi lo avrebbero i ministri e i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ecco, bisogna ricordare che Plinio era il capo di Stato Maggiore della Marina Romana e comandava la flotta che era di stanza a Capo Miseno. Quando vide l'eruzione del Vesuvio, la storia tramanda che lui si fosse appunto incuriosito e volesse andare a vedere che cosa stava succedendo, spinto da un interesse puramente naturalistico, perché lui era un grande naturalista e scienziato, ma ricevette una disperata richiesta d'aiuto da Rectina, che era la vedova di un suo collega ammiraglio. Comprese allora appunto, come lei diceva, il pericolo incombente su migliaia di cittadini di Pompei, di Ercolano e di altri abitati alle pendici del Vesuvio e decise di andare a salvare tutte queste persone che si erano ammassate sulla spiaggia, quindi mobilitò le sue forse 14 quadriremi che, essendo diciamo propulse da energia umana, potevano muoversi anche con i venti contrari e andò a recuperare queste persone. Lui stesso si imbarcò su una nave e si diresse verso Stabia, dove risiedeva il suo ricchissimo amico pomponiano. Ecco, appunto, da le ricerche, diciamo, tutte le cose che ci sono state tramandate sulla sua fine vengono dal resoconto di Plinio il Giovane, suo nipote, che in due lettere a Tacito ha lasciato molti dettagli sulla morte di questo grandissimo personaggio. Cionci, siccome ecco, ci stiamo lasciando, si arriverà a verità in breve tempo, ancora insomma è lunga abbiamo scoperto una cosa importantissima, che la mandibola del cranio non appartiene alla stessa persona della calotta cranica, ma la calotta cranica ha un'età compatibile con l'età di morte di Plinio e unendo tutti questi elementi, sì, diciamo che aumentano esponenzialmente le possibilità che sia lui. Beh, anche se non abbiamo la certezza al 100% ancora. Aspettiamo, sicuramente allora. Sì, nessun indizio contrario è emerso da questo che è il primo studio sul cranio. Bene, complimenti, grazie Andrea Cionci, vedremo nei prossimi tempi insomma se sarà effettivamente il cranio di Plinio il Vecchio. Intanto però dobbiamo rimanere coi piedi per terra, aggiorniamoci alle 22.